L'insegnamento del Regno dei Cieli. Parte 1. File audio 6. Capitolo Le cinque fasi del Liberatore. Continuiamo il paragrafo 6. In tutto vi sono livelli di comprensione e percezione. Che cosa posso fare? Supponi che io sia arrabbiato, proprio come nell'esempio che ho dato sopra. Ho bisogno di arrivare alla calma. Qual è la correzione? In ebreo tikkun. Che posso fare? Ci sono molte cose che hai già imparato, per esempio, vivere nell'ora, le cinque vi, le cinque risposte, le cinque domande e risposte e altri metodi del corso di base. In un certo senso sono tutti gli stessi. Quando osservi la figura, vedi in cima gli aspetti dei kilim. La cosa più importante da imparare riguarda i kilim e le luci. Poi il resto è alla tua portata. Non avrai più bisogno di dei, religione o altri metodi che ti distraggono solamente. Tu non devi correggere la luce. Correggi i tuoi kilim e la luce automaticamente apparirà. Supponiamo che io sia nella condizione del fratello A e non riesca a trovare pace. Tutta la mia vita è così e ovviamente trovo modo di calmare la mia coscienza. Tuttavia il senso di colpa mi rode. Come faccio a liberarmi? C'è una cosa molto importante che devi sapere. Quando qualcuno si arrabbia a causa del fratello o di un'altra persona, questo non ha nulla a che fare con l'altra persona. È sempre lo stesso. Tutti pensano che il vicino abbia una vita migliore della propria. Lo stesso nel nostro esempio, il fratello A pensa che il fratello B rubi ai suoi clienti. Il problema non è il fratello B, quindi la correzione non deve verificarsi nel fratello B. Il problema è nel fratello A. L'intero problema è nel fratello A. Come può arrivare alla calma? Vedi il suo problema come cinque chili. Keter, Chochmah, Binah, Zeir Anpin e Malchut. Esiste un principio, una legge. L'inizio della correzione non è nel pianto di Hashem, Hashem, aiutami. Fai quello che dicono gli scolari della Torah. Fai prima quello che è nel tuo potere. Dopo arriverà il momento in cui ti mancheranno le forze. Nessuna persona ha forza sufficiente per questo. Ma perché non posso immediatamente implorare Hashem? Perché devo lavorare così duramente fino a quando arrivo a Chochmah e sento che non posso andare oltre? Devo sviluppare tutte e quattro le forze in ogni condizione e posso farlo imparando la Torah. Che cosa può fare il fratello A? Per prima cosa deve con la sua forza rendere più sottile il suo aviut, desiderio più alto. L'aviut del quarto livello fino a quando diventa del terzo livello. Questo è il lavoro duro, puoi paragonarlo con l'accensione di un motore. Il motore ha bisogno di molta potenza alla partenza. È lo stesso nel nostro lavoro. Abbiamo bisogno di molta potenza, forza per continuare. Il fratello A deve andare oltre e portare la sua sensazione di rabbia al secondo livello. Deve rendere ancora più sottile il suo aviut, il suo desiderio, perché non ha alcun controllo su se stesso. Poi può andare al primo livello dove si trovano le proprie forze. La cosa più importante è non può fermarsi, ma deve continuare fino a quando non arriva a Keter. Come può arrivare a Keter se Keter non ha aviut? Ogni cli ha la forza di Yeshua, ma a questo punto non c'è più aviut. Per questo l'alto Keter Yeshua generale, il profeta, dice: vieni a me e ti rinfrescherò. Io darò conforto a tutti. Questo significa che si deve venire al proprio Kli Keter. Vieni a me significa vieni a Keter e ogni Keter riceve dall'alto Keter. Keter è la corona. Perciò anche il Keter più alto generale è premiato, e con lui il mondo intero e tutte le altre nazioni, cristiani e dopo anche gli ebrei, riconosceranno Yeshua come Keter. La corona sopra tutto e tutti. E questo accadrà irrefutabilmente. Puoi capirlo? Yeshua è la corona sulla mia corona individuale. Il mio Keter è presente in ogni situazione che è mia. Posso andare in alto quanto voglio, ma devo sapere che oltre questo punto vi è il più alto Keter, e tramite lui la luce della creazione può arrivare a me. Ogni Kli Keter si trova nella stessa condizione dell'alto Keter. Quando ottengo Keter, non importa in quale livello sia, ho la stessa qualità, lo stesso costrutto dell'alto Keter, come Yeshua è il profeta. Perché devi sapere che quello che si trova nella parte più piccola della creazione è inevitabilmente presente nella parte più alta. Ogni persona deve passare attraverso queste quattro fasi. Sto parlando di Kelim che non hanno luce. Quando il fratello A è arrabbiato con l'altro fratello, significa solamente che ha cinque Kelim vuoti, perché non hanno luce. Lui può raggiungere la cima solo quando passa tutti e quattro i Kelim, e come risultato il vuoto diventa più sottile e il male minore. Supponi che una persona raggiunga la quarta fase, Chokhmah. Che cosa può fare per andare oltre al Kli Keter? La distanza tra il Kli Keter e Chokhmah è come da Saturno. Da Saturno alla sabbia del Mar Morto. E le parole della Kabbalah. Puoi immaginarlo la differenza in qualità è talmente alta. È possibile per una persona compiere questo passo? Il Creatore ha creato un sistema ingegnoso che si chiama Emunah Lemala Meadat, che significa fede oltre la ragione e conoscenza. Solo quando si ha Emunah Lemala Meadat si raggiunge Keter. A ogni essere umano è data la via da Malchut a Chokhmah, o in altre parole, dalla quarta alla prima fase. Naturalmente io devo lavorare per arrivare alla prima fase, ma è data a tutti. E da questo punto posso andare a Keter andando le mala mi ha dato, oltre la ragione e conoscenza. Puoi vedere Keter come in mezzo alla creazione e al creatore. Ma Keter è la creazione stessa. La creazione ha già il Kli con le quattro fasi. Il Kli Chokhmah è il più sottile. È un indizio, è dato dalla lettera Yud, del nome Yud Hei Vav Hei. Keter non ha lettera. È solo il punto della lettera Yud, che significa che non ha Vyud, non ha lo spessore di un desiderio. Il Kli Chokhmah ha aviut della prima fase. Come può la creazione andare? Dalla prima fase a Keter per incrementare fino a Keter. Incrementare significa venire in conformità con le qualità del Kli Keter. O in altre parole, coprire il Kli Keter. Come è possibile? Come posso andare dalla fase 1 alla fase 0? È impossibile con l'intelletto. Non c'è alcuna possibilità di farlo con la ragione. Hashem l'ha creato in questo modo, che dobbiamo usare la nostra forza dalla fase 4 alla fase 1. Fino a quando Hashem arriva. Questo ti dà la sensazione del perdono, perché in Keter non puoi provare più la tua forza. Quando hai ottenuto Keter, tutto il male scompare. Lo stesso vale per tutte le cose di cui sei preoccupato. Ma dov'è Keter in me quando guardo me stessa? Malchut è il più basso. Quando guardo dentro me stesso, dal basso all'alto, vedo che più in alto vado, più mi avvicino a Keter. La cima è il mio capo e posso andare anche più in alto. Sopra la mia testa, dove si trova Keter. Il pentimento, Teshuva, non significa dall'alto al basso, ma dal basso all'alto. In me ho Yesod. E il mio pentimento inizia da questo punto fino al alto in Keter. Come rendo il mio aviut più sottile? Il Kli non può elevarsi, è possibile rendere il mio Kli o desiderio più sottile tramite Yesod. Sappiamo che Yesod ha la forza di elevarsi. Quindi tramite Yesod posso compiere tutto l'innalzamento. L'ultima stazione è Keter, e questa è la resa completa. Prima devo fare di tutto per andare dalla fase 4 alla fase 1. Come può il fratello A fare questo? Deve giustificare la sua situazione con tutta la sua forza. Deve dire: questa è la mia situazione. Mio fratello non è colpevole. Supponi pure che il fratello sia colpevole, che rubi ai suoi clienti. Poi se ne occuperà la legge o un'altra organizzazione. Perciò non giudicare un'altra persona anche se è tuo fratello. C'è una Midrash, una storia allegorica, su due fratelli che vivevano a Gerusalemme, uno vicino all'altro. Uno era ricco e l'altro povero. Durante i giorni di festa, il fratello ricco andava di notte nel granaio del fratello con un grande sacco di grano, sapendo che il fratello era povero e aveva una famiglia numerosa. Il giorno successivo, il fratello povero vide il sacco di grano e pensò che Dio glielo aveva donato. Così volle condividerlo con il fratello ricco. Ma non voleva che il fratello ricco sapesse che questo dono venisse da lui, perché questo è un atto di altruismo vero. Quindi la notte successiva portò mezzo sacco di grano al pagliaio del fratello ricco. Ma il fratello ricco stava pure andando al pagliaio del fratello povero con un altro sacco di grano. Così si incontrarono a metà strada. La Midrash ci racconta che nel punto dove si incontrarono fu eretto un tempio, il Tempio di Gerusalemme. Il significato di questa storia è: vai oltre la ragione, solo allora puoi ricevere il regno dei cieli, che è Keter. Il Keter dentro di te e non in alcun altro luogo. Chi riesce ad andare oltre la ragione, chi vince il proprio intelletto riceverà il regno dei cieli. Andare oltre la tua ragione equivale ad andare al tuo Kli Keter. Perché puoi ricevere il regno dei cieli solamente lì? Vedilo in questo modo. Quando raggiungi Keter del livello inferiore, Malchut del livello superiore è al suo interno. Malchut del livello superiore è sopra il Kelim del mio male. Il male che provo è a causa di mio fratello. Questo è un fatto, questa è la connessione tra i monti, tra i mondi, tra i parzufim e tra i sferot. Qualunque sia la condizione, Malchut del livello superiore è all'interno del mio Kilim. Il nome di Malchut del livello superiore è Malchut Shamayim, il regno dei cieli. Il significato delle parole Malchut è regno. Perché si dice regno dei cieli? Il Kli che ha bisogno di correzione si chiama terra. Ma il livello superiore rispetto a esso è come il cielo. in un certo senso. I miei kilim sono desideri di ricezione. O in altre parole, essi sono malhut rispetto ai livelli superiori. Malhut del livello superiore è sempre all'interno del mio keter. E questo malhut del livello superiore è il regno dei cieli. Allora, dove vado? L'unica cosa che devo fare è andare oltre la ragione. Ritorniamo al caso dei fratelli A e B. L'intelletto in me dice che mio fratello sta truffando, sta rubando ai suoi clienti. Sta facendo delle cose illegali. Deve farlo, altrimenti come può permettersi? Certe macchine? E avere così tanto onore? Io devo andare oltre la mia ragione. Perché il mio intelletto vuole controllarmi, vuole che io mi concentri su cose malvagie. Alternativamente, l'intelletto può indurre a concentrarmi sull'altro lato, il lato che dice tu sei buono, sei un santo. Sei una persona speciale, eccetera. L'intelletto può provocati anche dal lato destro. Ma nel caso dei fratelli, l'intelletto sta provocando dal lato sinistro. Quando reagisci, tu finisci nella trappola del Sitra Ahara. Che puoi fare? Vai oltre la ragione. Prima hai bisogno della tua forza per giustificare la situazione, o in altre parole, devi favorire tuo fratello. Questo ci è dato di favorire altre persone e quando lo fai, ti innalzi dalla quarta fase alla terza. Tutto il lavoro è all'interno dei quattro kilim inferiori. Quando riesco a favorire, rendo il mio aviut più sottile. L'agitazione in me diminuisce. Il problema è che non posso favorire me stesso e come conseguenza non posso favorire un altro essere. Ci lamentiamo sempre di un'altra persona, della società, del tempo, eccetera. È sempre qualcosa al di fuori di noi. Questo non mi permette di andare al mio interno. Quando il fratello A riesce a favorire il fratello B e riesce a farlo sempre di più, i suoi kilim diventano più sottili e grazie a questo raggiunge la vera calma. Tu devi fare lo stesso. E quando raggiungi il Kli Chokhmah, vai oltre la tua ragione e dici: sebbene non capisca, vado oltre il mio intelletto. Come posso farlo? Le parole che disse Yeshua sono caratteristiche del Kli Keter. Per esempio, quando qualcuno ti colpisce sulla guancia destra, porgili l'altra guancia. Solo quando vedi le lettere ebraiche riesci a capire il vero significato. Più tardi lo studieremo nell'insegnamento del Regno dei Cieli, l'insegnamento della sciocchezza. È un altro vecchio nome dell'insegnamento del Regno dei Cieli. In questo libro impareremo il Brit Hadashah, i libri del Nuovo Testamento nella loro lingua originale. Ciò che Yeshua disse sul Regno dei Cieli riguarda solo il Kli Keter. Quando metti in pratica le parole che impari, anche tu ti eleverai ed entrerai nel Kli Keter. Vai oltre il tuo intelletto, oltre la ragione. Questo è quello che devi fare. Puoi entrare nel Kli Keter solo tramite la tua fede, non tramite conoscenza o intelletto. Qualcuno che sta solo imparando con il suo intelletto non capirà nulla. Senza fede non si può arrivare al Kli Keter. Solo arrivando al Kli Keter si può ricevere la luce. Come ho detto prima, dentro Keter si trova incluso Malchut del livello superiore, e tramite questo Malchut superiore puoi attirare tutto. Tramite Malchut del lato del bene, nell'albero del bene e del male. Malchut superiore è dentro il mio Keter. Ed io scelgo il lato in cui Malchut è connesso con Binah, il lato del bene. O in altre parole, il secondo punto. Scelgo Malchut che è dentro il mio Keter. Non il Malchut che non mi dà nulla. Mi connetto con Malchut dentro il mio Keter, e questo è connesso con Binah, il secondo punto. Da questo punto ricevo tutto il bene che viene dal superiore. Lasciami citare Yeshua. Io faccio quello che mio padre fa, da cui ricevo tutto. Ogni volta devo andare al Malchut del livello superiore che è all'interno del mio Keter. Vale a dire, devo portare il giogo del regno dei cieli, giogo perché devo andare oltre la mia ragione, il mio intelletto. Si prova come il portare un giogo. Perché io sono fatto per ricevere per me stesso, e questo è così naturale. Io sono creato, nato, con il desiderio di ricevere per me stesso, e quando arrivo a Keter, provo qualcosa di naturale, e questo è l'aspetto del dare. È quello che tu e ogni altro essere umano deve fare. portare il giogo del regno dei cieli. Chi studia i libri di Shlavei HaSulam impara questo, ed è lo stesso che disse Yeshua. Devi impararlo in questo modo. Questa è la sola introduzione al mistero del perdono. Quando leggi la parola perdono, non pensare che devi perdonare un'altra persona, ma devi lasciare andare solo allora puoi iniziare il perdono di te stesso. Non chiedere perdono al Creatore con le parole non ti aiuterà. Devi andare al tuo Keter. Quando reciti preghiere con la parola e speri che la gente pensi quanto tu sia grande perché stai pregando, no. Yeshua guarda alla sua gente con amore. È dato a tutti. A tutti noi di arrivare alla nostra salvezza in ogni momento. E la salvezza verrà. Ricordi che nell'anno 2000, alla fine del millennio, il Papa mostrò la sua espressione di rimorso al popolo ebraico. Chiese perdono al popolo ebraico per quello che la Chiesa aveva fatto loro. Il tempo del Mashiach è arrivato. Fai attenzione. Questo è il momento per il popolo ebreo di chiedere perdono per aver lasciato uccidere Yeshua. Non si devono convertire al cristianesimo. Vi è un solo Redentore, un liberatore per tutto il genere umano. Il tempo è arrivato per il popolo ebreo di mostrare rispetto perché essi hanno ucciso Yeshua. È scritto nella loro legge. Chi ordina di uccidere un'altra persona è colpevole per quel omicidio. In altre parole, è anche lui un assassino. Perciò ascolta bene e lascia andare ogni resistenza in quello che dico. Solo allora posso aiutarti. Come sai, c'è un aspetto generale e uno particolare in ogni cosa. E in qualunque. Quale fu la conseguenza nel generale dell'uccisione di Yeshua come un profeta? Il cancello al paradiso fu ucciso. Uccidendolo fisicamente, uccisero, infatti, la salvezza che era venuta sulla terra. Ma quando guardiamo l'aspetto particolare, vediamo che ogni ebreo e intendo ogni ebreo anche chi è nato dopo quell'uccisione, è colpevole dell'assassinio di Yeshua, che era uno di loro. E con questo loro distrussero Yeshua. il loro stesso Keter, il quale è la loro salvezza. A causa di questo evento, cioè che loro uccisero Yeshua, il cancello, l'entrata al Kli Keter si chiuse. La conseguenza di questo è molto peggiore di quello che tu possa immaginare, perché, come già sai, nella scala delle anime umane, le anime ebree sono la testa. I tre Sfirot superiori sono la testa. L'alto Keter è chiuso e l'alto Keter venne specialmente per loro. Allora, quando il popolo ebreo non apre l'alto Keter, loro non ricevono la salvezza di Yeshua mentre lui venne specialmente per loro. Loro sono i primi a ricevere la luce e non possono ricevere la salvezza fino a quando non hanno compiuto tshuva, pentimento. Vale a dire, fino al momento in cui aprono Keter. Come conseguenza di quello che hanno fatto, un muro si è eretto tra la luce di salvezza del Regno dei Cieli e le nazioni del mondo. Quindi neanche altre persone possono ricevere la luce. E i cristiani che credevano e credono in Yeshua possono solo ricevere una piccola luce dall'alto Keter, o in altre parole, quando il popolo ebraico mostrerà il proprio rispetto, in modo così fragoroso che tutto il mondo possa udirli, tutti i problemi fondamentali si risolveranno dall'interno. Apri il tuo cuore e leggi attentamente quello che ho appena detto. Ponilo nel tuo cuore. E fai quello che puoi. Se la nazione ebraica trascura questo aspetto, non può esserci fine alle crisi, terremoti, guerre, carestie, alluvioni, eccetera. Uno sviluppo strutturale non potrà essere possibile fino a quando il popolo ebreo non si unirà e mostrerà rispetto. Farà un piccolo gesto per mostrare il loro rispetto per Yeshua al mondo intero, per quello che loro fanno, che loro hanno fatto. Solo allora i cancelli ebrei si potranno aprire e questo avrà conseguenze enormi per il mondo intero. Me deve venire dalla terra di Israele, dai quartieri generali del rabbinato di Gerusalemme. Loro diedero Yeshua in mano ai Romani, perciò loro devono purificare la coscienza interiore di tutta l'umanità e gli ebrei che vivono in tutto il mondo devono sopportarli. Naturalmente tutto è dentro di te. Come ho detto prima, vi è l'aspetto generale, quello particolare o individuale. O in altre parole, dentro di te Yeshua deve risorgere. Tutto qua. Fai risorgere Yeshua. Crea dentro di te l'apertura per Yeshua. Crea dentro di te l'apertura per l'Alto Keter e il Mashiach potrà venire e verrà. Ascolta quello che dico e accettalo, specialmente se sei un ebreo. Sappi che ogni essere umano desidera la forza dell'Alto Keter, che lo sappia o no. Ma se un ebreo legge questo, accetta le parole che hai appena letto. Queste sono le parole di un cabalista di questo tempo. Le parole di un cabalista prima dell'arrivo del Mashiach. Non ignorarle. Ascoltale e vedi quello che puoi fare per il tuo bene. L'intenzione di un ebreo non deve essere quella di convertirsi in un cristiano. Significa che essi devono arrivare allo stesso mikve spirituale. Che essi possano osservare o vedere il peccato compiuto una volta quando Yeshua, il Redentore dell'umanità, fu ucciso, e che possano perdonarsi. Ma deve essere fatto in pubblico e basta. Una volta compiuto questo passo, potranno fare quello che vogliono. Si prova una profonda resistenza in questo perché com'è possibile che un ebreo mostri il suo rispetto quando ancora loro hanno la sensazione di cosa lui ci ha fatto? Possono provare dolore per il loro ruolo, possono provare dolore per il loro ruolo nell'uccisione di Yeshua. Che cosa è stato fatto in suo nome al popolo ebreo? Non è ancora colpevole, quindi perché dovrei perdonarlo? In un certo senso danno la colpa a Yeshua per tutto. Ma questo fu in passato. Ora, in questo tempo, può essere fatto. Se tutti i leader religiosi ebrei e i leader del mondo abbandonassero le loro posizioni a favore della vera pace, della salvezza, potrebbe essere fatto. In un certo senso è semplice, come disse Yeshua. Che cosa è di così difficile nelle parole dette al paralitico alzati e cammina? Che cosa significa? Il paralitico è qualcuno che non può arrivare al cliketer, non può ricevere la luce proveniente dal regno dei cieli. Il luogo da dove parlava Yeshua. Ma la gente non lo capiva. Il mikve interiore era lì per dare a una persona l'opportunità di Provare, Keter. In questo vi era la salvezza. Ero paralitico e ora posso camminare. Ero cieco e ora posso vedere. Ero sordo e ora posso udire. Questo è possibile per ognuno di noi dopo il Mikve. Non solo nell'aspetto regolare. Non incolpare agli ebrei e dire che loro non lo fanno. È rivelato pure a te. Quando accetti queste parole dentro di te, ponile nel tuo cuore e agisci. Non pensare, oh lui. Non lo fa, perché dovrei farlo io? Chi lavora su questo accelera questo processo. Il processo della maturazione del popolo ebraico, così che anche loro possano scegliere Yeshua invece di Barabba. Furono le loro parole: Yeshua deve morire e non Barabba. Loro scelsero Barabba dentro di loro. E a causa di questa scelta ora vi è diversità tra loro e il Creatore. Per questo motivo il popolo ebreo soffre tanta miseria. In quel momento avevano l'opportunità di scegliere Yeshua, ma scelsero il male dentro di loro. Allora pensarono di aver preso la giusta decisione. Sentirono la forza, le quattro fasi. Fecero ciò che era in loro potere. Pensarono che potessero arrivare al Creatore indipendentemente. Perché? In un certo senso, il loro pensiero era giusto, ma allo stesso tempo sbagliato. Loro videro Chochmah, Binah, Seiran Pin e Malchut, le quattro lettere del nome Yud Hei Vav Hei, Havaya. Loro padre nel cielo. Quello che non videro fu il punto dello Yud, che è anche parte della forza creativa. Non potevano vederlo perché non ha cli, non ha aviut. Devi andare oltre il tuo pensiero, altrimenti non puoi vedere il punto dello aiuto. Perciò non potevano vedere né capire questa forza salvatrice, forza così tenera, così piena di misericordia, ma senza aviut. Fu Yeshua a prendere tutti i peccati sulle sue spalle, solo per salvarli. Che cosa significa che prese tutti i peccati, tutte le malattie sulle sue spalle? Lui era Keter, e non vi è aviut in Keter. Chiederà già tutti i 10 Sefirot in sé. Keter di Keter, Chochma de Keter, Bina de Keter, eccetera. Come sai, tutto ha 10 sfirot. Chi è l'ambasciatore? O lo stesso Keter? Keter stesso. E gli altri 9 sfirot sono connessi con questo Keter. Anche a loro manca Aviyut. Chochma de Keter, Bina de Keter, eccetera. Anche a loro manca Aviyut, ma sono presenti in Yeshua. E hanno le 4 fasi dentro Keter. La prima fase è Chochma de Keter. La seconda, Bina de Keter. La terza è i 6 sferot di Zeiran Pin de Keter. E la quarta fase, Malchut de Keter. Questo è quello che Yeshua aveva messo sulle sue spalle. Questi sono i peccati, tra virgolette. Tutti gli aviut potenziali che aveva preso in sé. Qual è il significato intero del Vecchio Testamento o Vecchia Alleanza? Tutto è connesso in questo patto, all'interno di questo testamento. E con tutto intendo noi il popolo ebraico, noi il popolo cristiano, eccetera. Questa è la coscienza di tutta l'umanità. Noi. È un testamento, noi testamento. Qual è il significato interiore del Nuovo Testamento? Nuovo Testamento, tra virgolette, o Nuova Alleanza, tra virgolette. Questo è il mio patto. Il mio testamento. O in altre parole, la mia connessione personale con il Creatore. E solo questo può portare e dare adempimento sia all'individuo sia all'intera comunità. Ogni persona che vive qui sulla terra ha 2 forze al suo interno. La forza di Israele, il desiderio di dare, e la forza delle nazioni del mondo, il desiderio di ricevere per se stessi. Stai sempre allerta che le nazioni del mondo in te non distruggano il tuo Yeshua e lo uccidano. Quando noti che le nazioni del mondo acquistano più potere dentro di te e vogliono umiliare Yeshua dentro di te, allora resisti. Come? Vai oltre la ragione. E quando fai questo, ogni volta puoi dire: io ho vinto sul mondo.